Questo emendamento interviene di nuovo sull'articolo 73,5, ovvero i fatti di lieve entità che già erano stati aggravati da questa maggioranza, da questo governo, con l'approvazione del decreto Caivano, e in particolare di fatto recepisce un'interpretazione della Cassazione rispetto alla distinzione tra reato di lieve entità e reato, diciamo, con pena base per droghe, che restringe ulteriormente la possibilità di applicare appunto i reati di lieve entità, che poi alla fine non sono così di lieve poi penalità invece, alle persone che appunto vengono accusate di spaccio. Questo emendamento è un ulteriore appesantimento di quella che è una legislazione che porta già oggi nelle carceri italiane un terzo dei detenuti. È stato approvato con lo slogan mandiamo gli spacciatori in carcere, ma evidentemente il senatore Lisei non sa che gli spacciatori sono già nelle carceri italiane. Abbiamo il doppio della media europea di detenuti per droghe, addirittura superiamo largamente paesi come la Russia, che sulle droghe certamente non scherzano. Per cui si tratta dell'ennesima mossa populista per cercare di trovare consenso senza poi di fatto alcun effetto sulle nostre strade, nelle nostre piazze, nei nostri giardini, perché sono 60 anni che si prova in questo modo, gli effetti sono evidenti a tutte e tutti. Però insomma, di fatto il rischio è quello di equiparare il piccolo spacciatore al grande narcotrafficante, no? Esatto, cioè introducendo il fatto che non si può applicare la lieve entità nel caso di condotte reiterate, che poi sono condotte che vengono invece fatte dai piccoli spacciatori, si fa in modo che al posto di applicare una pena che oggi va da 1 a 6 anni, per cui comunque una pena piuttosto considerevole, si dovrebbe applicare la pena base, che invece è da 6 a 20 anni per le sostanze cosiddette pesanti, per cui eroina, cocaina e tutto il resto, e da 2 a 6 anni per la cannabis. C'è il rischio che vengano coinvolti anche i consumatori? Certo, anche perché nel momento in cui questa norma venisse applicata alla lettera e senza un'interpretazione, anche le cessioni fra consumatori, ma molti consumatori che cedono per continuare a consumare, potrebbero essere appunto e che oggi vengono, quando arrestati, accusati di appunto articolo 73,5, potrebbero invece ricadere nella fattispecie generale, che ovviamente è molto più gravosa dal punto di vista processuale e di pena minima. Tutto ciò avviene mentre invece a livello internazionale si aprono un po' spiragli per, come dire, una via diversa, no? Certo, abbiamo in Europa stati che hanno regolamentato, di fatto depenalizzando il consumo personale, ad esempio, di cannabis, e che hanno effetti molto positivi rispetto sia ai consumi che poi al calo invece della pressione sulle carceri. Pensiamo alla Germania, ma prima l'aveva fatto Malta, l'aveva fatto il piccolo Lussemburgo e adesso lo sta facendo la Repubblica Ceca. E altrove nel mondo vediamo che invece, regolando a partire dalla cannabis il mercato delle sostanze, si toglie un lucroso affare per le narcomafie, dall'altro si riescono a limitare i danni che eventualmente queste sostanze possono provocare nelle persone. Questo vale ovviamente per la cannabis, che è la sostanza più usata e anche più controllabile, ma può valere anche per altre sostanze, e di sicuro tutte le volte che si è cercato di depenalizzare il consumo il consumo e anche la detenzione si sono avuti effetti positivi rispetto anche alla possibilità di accedere ai servizi da parte delle persone che usano sostanze, diciamo, in modo problematico.